Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, le notizie dall'Europa, partendo da Eurostat. Gli italiani ancora diffidenti nei confronti dell'Europa, soltanto il 35% crede nelle istituzioni, ovviamente pesa la crisi. Ecco i dati presentati da Eurobarometro. Italiani poco ottimisti e in maggioranza ancora favorevoli alla moneta unica. I dati diffusi da Eurobarometro Standard, il sondaggio condotto a livello europeo sulle opinioni dei cittadini dell'Unione, mostrano come in Italia si abbia meno fiducia nel futuro rispetto agli altri europei. Solo il 40% degli italiani, a differenza del 51% nel resto dell'UE, si dice pronto a credere a un miglioramento della situazione. Addirittura la maggioranza, ovvero il 53%, dice di non sentirsi cittadino europeo. È la crisi economica e sociale a dominare i pensieri e influisce sui giudizi nei confronti dell'Unione. Tanto che la fiducia nella Commissione europea è scesa dal 35 al 32%, mentre quella nei confronti del Parlamento europeo passa dal 41 al 36. In controtendenza il dato nei confronti della Banca Centrale Europea, che vede crescere la fiducia riposta dagli italiani dal 28 al 31%. Il rapporto è stato commentato dal vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, che chiede un cambio di passo. Serve anche presentarsi da parte dell'Italia a Bruxelles con un progetto serio di cambiamento che potrebbe anche far prendere in considerazione una interpretazione del patto di stabilità considerando alcuni fattori attenuanti. Nonostante le critiche, l'euro resta un punto fermo e il sostegno da parte dei cittadini è pressoché stabile. Il 53% degli italiani è favorevole alla moneta unica, mentre è contrario il 36%, dati che per Tajani richiedono comunque un intervento. Io ritengo, la mia posizione personale ovviamente, che si debbano cambiare le regole che governano la Banca Centrale Europea. La quasi totalità degli italiani chiede infine cambiamenti. L'88% è convinto infatti che il paese abbia bisogno di riforme per andare avanti. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un dipendente civile della National Security Agency statunitense, la NSA, ha di recente rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso con l'FBI di aver consentito all'allora contractor Edward Snowden di usare la sua password personale per avere accesso a informazioni classificate. Intanto il Parlamento europeo si oppone al principio di riconoscere un diritto di asilo alla spia che di fatto ha fatto tremare l'NSA. Il servizio. Lo scandalo Datagate continua a dividere il Parlamento europeo, divisioni che si sono fatte nuovamente evidenti in occasione della bocciatura della proposta di asilo ad Edward Snowden, la talpa che ha denunciato l'attività di spionaggio dell'NSA. Delusi i Verdi, che si sono battuti perché Snowden fosse protetto qualora decidesse di lasciare la Russia e arrivare in Europa. Per l'europarlamentare tedesco Jan-Philipp Albrecht, Snowden non deve essere trattato come un criminale. Dovremmo invece dire che è un testimone importante, dice ai microfoni di Euronet Plus, che abbiamo bisogno delle sue informazioni e che quindi lo porteremo qui affinché possa riferire davanti a noi, ai parlamenti, ai tribunali, sotto protezione, come sempre avviene per testimoni del genere. Di fatto lo scandalo getta un'ombra sui negoziati per il trattato di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Europa. Conservatori e socialisti preferiscono non compromettere un difficile equilibrio. Mr. Snowden attualmente non è in Europa, è in Russia, ribadisce l'europarlamentare inglese Timothy Kirchhoff. Deve rispondere di accuse precise negli Stati Uniti. Non credo che l'Unione Europea debba assumersene la responsabilità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Forse è già effetto Expo, tant'è che Milano supera Madrid, Berlino e Roma nella top 10 delle migliori destinazioni europee per il 2014. A stabilirlo la classifica redatta dallo European Consumers' Choice, l'organizzazione no profit con sede a Bruxelles, sulle città europee a vocazione turistica. Il capoluogo lombardo ha raccolto il 6,6% delle preferenze, posizionandosi al primo posto in Italia, al settimo in Europa, tra le scelte degli oltre 228.000 cittadini europei che hanno votato tramite Facebook. E con questo è tutto. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.